giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sempre più MSC, sempre meno Wärtsilä. Stamattina a Roma è stato ratificato l'accordo che era stato già approvato dai lavoratori con un'adesione vicina al 100%. Il 29 la firma dell'accordo di programma, successivamente il via ai lavori di adeguamento del sito alla nuova produzione di carri ferroviari. Caldo da bollino rosso e ad aumentare il calore percepito l'aria afosa di queste giornate. A Trieste il record per il nord Italia. I medici raccomandano di uscire di casa solo nelle ore più fresche e di tenere chiuse le finestre durante il giorno per aprirle di sera e di notte. Cooperazione sociale, il nuovo contratto nazionale di lavoro aumenterà gli stipendi del 15%, circa 120 euro in più al mese. 14.500 addetti in regione, l'85% degli introiti per le 200 imprese sociali del Friuli Venezia Giulia arriva da contratti con la pubblica amministrazione e alla regione arriva la richiesta di un impegno finanziario straordinario. A Pordenone mancano 6 degli 8 giudici di pace previsti. È la scopertura d'organico più clamorosa e grave, ma non l'unica. Nel resto del tribunale, che copre oltre al Friuli occidentale anche il portogruarese, mancano 4 magistrati su 21. Abbiamo intervistato il nuovo presidente, Rodolfo Piccini. Nozze d'argento per Pordenone Legge, che quest'anno giunge alla 25esima edizione. Stamattina a Roma la prima delle presentazioni della manifestazione, che si svolgerà dal 18 al 22 settembre e che oltre a Pordenone toccherà altre 12 località. La Turandot di Giacomo Puccini, per la regia di Davide Garattini Raimondi, è stata rappresentata ieri sera a San Giusto nell'ambito del cartellone Trieste Estate. Figuranti anche in platea e sulle mura del castello, spazio teatrale sfruttato nella sua interezza. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Lara Zani e Antonio Cagliazza. In apertura di questo giornale radio una notizia di cronaca relativa ad un infortunio sul lavoro che si è verificato stamattina presto, ma di cui si è avuta notizia solo poco fa. Una persona è rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente sul lavoro verificatosi appunto alle 6:30 di stamattina alle Ferriere Nord del gruppo Pittini a Osoppo. L'incidente è avvenuto nella divisione acciaieria. Un lavoratore è stato raggiunto a un avambraccio e alla schiena da una fuoriuscita di acciaio liquido. Gravi le ustioni riportate a causa dell'altissima temperatura del materiale. L'uomo è stato condotto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, ma sarà probabilmente trasferito al centro Grandi Ustionati di Padova. Al Ministero per il Made in Italy stamattina è stata ratificata la storica intesa tra Stato, Regione, Wärtsilä, MSC e sindacati, che aveva ottenuto anche l'approvazione quasi unanime dei lavoratori coinvolti. E c'è la data per la firma dell'accordo di programma, il 29 luglio. È arrivata anche la ratifica dell'accordo quadro tra Wärtsilä e MSC. Le firme sono state apposte stamane a Roma alla presenza del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, e di tutte le parti coinvolte. Urso ha ribadito il successo dell'operazione, un esempio che pone le basi per salvataggi di altre realtà in crisi. Gli assessori regionali alle attività produttive Sergio Bini e al lavoro Alessia Rosolen hanno affermato che la firma dell'accordo ha richiesto una volontà fortissima della regione e un confronto in cui tutte le parti vanno ringraziate. 261 lavoratori passeranno dunque a MSC entro fine mese, fino ad allora verrà prorogato il contratto di solidarietà. La risoluzione della crisi giunge quasi dopo 2 anni dall'annuncio della chiusura della produzione da parte della multinazionale finlandese. Come ricordano anche i sindacalisti Fim Fiom Wilm, dopo 2 lunghi e travagliati anni fatti di rabbia, paura e speranze, si sono poste solide basi per il superamento dell'avvertenza. Il cronoprogramma ora marcia spedito. Lunedì l'accordo sindacale è stato approvato a larghissima maggioranza dai lavoratori, 99 sì, un plebiscito. Oggi a Roma un passaggio formale ma necessario che porta al 29 di luglio, data confermata dallo stesso Urso, nella quale verrà firmato l'accordo di programma. Subito dopo potrebbe già partire la riconversione industriale dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra, dove MSC produrrà carri ferroviari. La produzione dovrebbe partire nel 2026 e raggiungere il pieno regime nel 2027. Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Comune di Trieste stamattina ha fatto il punto sui prossimi interventi da realizzare in materia di edilizia scolastica. Sentiamo quali saranno le priorità. 50 milioni di euro per 3 anni di opere pubbliche sull'edilizia scolastica. La Giunta Comunale di Trieste ha fatto il punto sui lavori conclusi, quelli in corso e quelli in avvio nelle strutture scolastiche cittadine. Più di 50 gli edifici coinvolti per opere che vanno dall'adeguamento sismico a quello per la prevenzione incendi, ma sono compresi anche aspetti più minuti come la sostituzione serramenti, le modifiche all'impianto elettrico e la pittura delle aule. La posta più elevata, spiega l'assessore comunale alle politiche del patrimonio immobiliare Elisa Lodi, è nell'edificio di via Tigor, che ospita la scuola primaria Nazario Sauro, 8 milioni derivanti dal PNRR per lavori ancora da concludere, 6 milioni e 200 mila per la secondaria di primo grado Caprini in salita di Zugnano in corso e 6 milioni e mezzo per il complesso scolastico di strada di Rozzol, che ospita la primaria Giotti e la Stuparic, per lavori che inizieranno entro fine mese, mentre più di 2 milioni e mezzo sono per il consolidamento strutturale e l'adeguamento antincendio alla Fonda Savio, una serie di cantieri insomma diffusa in tutti i rioni della città, a parte Barcola. I fondi sono per il 60% regionali e PNRR per il 40% del comune. Per il rientro degli istituti, al momento fuori sede, come la Corsi, traslocata al Molo IV, spiega l'assessore comunale alle politiche dell'educazione Maurizio De Blasio, c'è ancora da aspettare. Le classi rientreranno nella sede originaria con l'anno scolastico 2025 e in alcuni casi nel 2026. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Giornate di caldo africano, temperature attorno ai 30 gradi, spesso anche oltre, e Trieste nel nord Italia è addirittura l'unica città da bollino rosso. Approfondiamo la situazione con Livio Stefanuto dell'Osservatorio Meteorologico Regionale. Dove è arrivata la colonnina di mercurio nelle varie zone del Friuli Venezia Giulia? È stata molto caldo, direi, su tutta la regione. L'arrivo di questa area calda, di questo anticiclone con l'atmosfera stabile, ha provocato un deciso aumento delle temperature, ma anche dell'umidità, da cui questa sensazione di afa decisamente intensa. Valori diffusamente tra i 35 e i 36 gradi sotto la pianura, abbiamo registrato ieri pomeriggio. Sulla costa ci siamo fermati tra i 33 e i 34 gradi, a Trieste anche tra i 33 gradi. Naturalmente però la presenza del mare, in questo caso accadono i fenomeni della brezza. La brezza aiuta, come dire, ad attenuare la sensazione di caldo, ma porta anche aria piuttosto umida, che poi permane durante la sera e la notte, quindi la zona di afare permane solo lungo la costa anche durante le ore notturne, ma come temperatura naturalmente in pianura i valori sono di più alti, specialmente sulla media e alta pianura. Relativamente alto anche il tasso di umidità, quindi? Decisamente sì, perché è chiaro, la quantità di acqua che può contenere l'aria dipende appunto dalla sua temperatura, quindi più caldo fa, maggiore è la quantità di acqua che può contenere l'aria e quindi anche il grado di umidità, da cui appunto questa sensazione di afa che ci ha appunto obbligati ad emettere un'allerta caldo proprio per questa ondata di calore che in questi giorni ha interessato la regione e che continuerà a interessarci, direi, fino a sabato, anche se sabato potremo avere un calo delle temperature, anche per l'arrivo probabile tra venerdì e sabato di qualche temporale, soprattutto sulla zona montana e sull'alta pianura della nostra regione. Un calo episodico o qualcosa di più importante? Sarà episodico, anche se naturalmente con l'energia in gioco i temporali potrebbero essere anche localmente forti. Poi però già da domenica ripone di nuovo l'anticiclone potentemente sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi le temperature alte permarranno anche all'inizio della prossima settimana. Vediamo la situazione meteorologica al momento. Il cielo è sereno, poco nuvoloso sulla regione, ed ecco le temperature alle 11 di stamattina. Trieste 29 gradi, il mare è calmo e ha una temperatura di 29 gradi. A Udine 32, a Pordenone e a Gorizia 33, a Tarvisio 26, Tolmezzo 28, Forni di Sopra 26 gradi, Sappada 23, Piancavallo 24, sullo Zoncolan 20, sul Monte Lussari 18. A Grado 30 gradi, a Lignano 32, la temperatura del mare nelle due località è di 29 gradi. Il caldo record che investe Trieste può rappresentare anche un serio pericolo per la salute, specie per soggetti più fragili come anziani, bambini e cittadini con patologie preesistenti. Gli esperti della Società Italiana di Medicina Ambientale elencano alcuni consigli pratici per difendersi dal caldo. Evitare di esporsi al sole diretto, uscire di casa nelle ore più fresche, in casa mantenere le stanze fresche abbassando le tapparelle delle finestre esposte al sole, chiudere le finestre durante il giorno e aprirle di sera e di notte, assumere almeno da 1,5 litri a 3 litri di acqua durante la giornata, evitare alcolici e preferire cibi che contengono molta acqua, come frutta e verdura, indossare abiti in fibre naturali come lino o cotone e indumenti traspiranti, meglio se di colore chiaro. Passiamo alla politica. In Consiglio regionale la manovra estiva di assestamento di bilancio è dinanzi alla prima commissione, la Commissione Bilancio e Programmazione. Arriverà in aula il 23 luglio. Si è parlato di sanità in apertura del secondo giorno di lavori nella prima commissione integrata chiamata ad esaminare gli emendamenti sull'assestamento di bilancio che dovrà entrare in aula del Consiglio regionale il 23 luglio. Tra le modifiche illustrate dall'assessore Riccardi, il finanziamento di 3,5 milioni per l'adeguamento delle strutture socio-sanitarie di Fontanafredda, Magnago e Remanzacco, 2 milioni per l'onlus progetto autismo per la struttura abitativa delle persone con autismo e le loro famiglie, 1 milione per il fondo per la disabilità, 1 milione per il fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali dei comuni e degli associati e 250.000 all'Università di Udine per i percorsi di inclusione di persone con disabilità. Tra le novità previste per il sociale e l'istruzione, lo stanziamento di 1 milione per il contenimento delle rette per gli asili d'infanzia, che si aggiunge ai 500.000 già previsti nella manovra estiva. L'assessora Zilli, che in aula ha sostituito l'assessora competente Rosolen, ha illustrato anche la proposta di estendere il diritto alla carta famiglia anche alle donne che si ritrovano a gestire la famiglia dopo la perdita del coniuge. Previsti anche ulteriori 150.000 per la tutela dei livelli occupazionali nelle aziende in difficoltà e 40.000 per l'Istituto di Sociologia ISIC di Gorizia per gli studi sulle politiche giovanili. L'opposizione ha chiesto anche chiarimenti sui 95.000 destinati alla capitalizzazione di Autostrade Alto Adriatico, di cui la Regione detiene il 90,52% di capitale sociale. Tra le motivazioni principali esposte in aula la scorsa settimana c'era l'aumento dei costi per il completamento della terza corsia e oggi si è parlato anche delle opere previste dall'evoluzione del piano trentennale che corrisponde alla durata della concessione. Trieste, Vaciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Aumenti del 15% ai dipendenti delle cooperative sociali, lo prevede il nuovo contratto e il settore sollecita interventi alla Regione anche in sede di assestamento di bilancio, altrimenti si rischia il ridimensionamento o la chiusura di diversi servizi. Il recente rinnovo del contratto nazionale cooperative sociali porterà ad aumenti di stipendio entro fine 2025 di oltre il 15%, circa 120 € in busta paga in più al mese, in media, per chi aiuta persone con disabilità, patologie, minori, migranti, utenti fragili o si occupa di servizi comunali. Una boccata d'ossigeno, visti i bassi stipendi e le tante difficoltà, solo per citarne alcune, orari frammentati o indennità chilometriche non corrisposte. Difficoltà che producono anche disaffezione per le professioni di cura. Introvabili OSS, infermieri, educatori. In regione, nella cooperazione sociale, servirebbero oltre 2.000 addetti in più sui 14.500 attuali per garantire quei servizi essenziali che il pubblico non riesce più a gestire. Ma aumento di stipendio vuol dire anche maggiori oneri per le cooperative. Sindacati e associazioni datoriali, assieme, chiedono alla Regione un impegno economico in fase di ricco assestamento estivo di bilancio. Per un motivo ben preciso, per le 200 imprese sociali, l'85% degli introiti arriva da contratti con la pubblica amministrazione. Paolo Bernardis, presidente del Comitato Paritetico Regionale Cooperazione Sociale. Nella manovra del bilancio noi chiediamo che una parte sia messa a disposizione delle cooperative per questi maggiori costi. Dovesse venir meno e le cooperative sociali dovessero andare in difficoltà perché sono costrette a mettere loro risorse, sicuramente ci si troveremo in grosse difficoltà col rischio che alcuni servizi non vengano più garantiti. Dai sindacati un altro campanello d'allarme. Dal 6 agosto entrerà in vigore l'obbligo di iscriversi ai nuovi albi degli educatori e pedagogisti. Eccessive rigidità su data e requisiti potrebbero precludere l'esercizio della professione a chi magari fa l'educatore da 20 anni, pur in assenza di un titolo formale ora prescritto. Fino a 500 persone in Friuli Venezia Giulia, tra loro 50enni che potrebbero trovarsi da un giorno all'altro senza lavoro, con servizi dai nidi ai ricreatori a rischio. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Un incendio è divampato poco dopo le 10 a Sacile, in via Fontana, nella frazione di Cornadella. Il rogo ha interessato una tettoia vicina a un'abitazione sotto la quale era depositato del materiale edile. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto i vigili del fuoco di Pordenone e di Maniago. Dal 1 luglio il Tribunale di Pordenone ha un nuovo presidente, Rodolfo Piccin. Eredita una situazione difficile dal punto di vista della carenza d'organico e la peggiore, dice, interessa l'ufficio del giudice di pace. Lo incontriamo alla sua vecchia postazione, Rodolfo Piccin, 58 anni, di Vittorio Veneto, dal 1 luglio nuovo presidente del Tribunale di Pordenone. Ha scelto di non lasciare l'ufficio GIP GUP di cui è coordinatore almeno fino a settembre per non pesare sulle ferie di colleghi e colleghe. Il Palazzo di Giustizia soffre di una grave carenza di giudici e di personale amministrativo. La situazione più critica è quella del giudice di pace. Piccin. È l'ufficio con la maggiore scopertura di organico sia per i magistrati, ne mancano 6 su 8 previsti, e sia per quanto riguarda il personale amministrativo siamo in una scopertura media attorno al 67%. Ma la sofferenza in organico riguarda l'intero tribunale che oltre al Friuli occidentale copre anche il Portogruarese, 87.000 abitanti incrementati nei mesi estivi dal carico delle località balneari. Il tribunale è in sofferenza sia per quanto riguarda i magistrati, ne mancano 4 sui 21 previsti in pianta organica, e sia per quanto riguarda il personale amministrativo, anch'esso in commiabile per gli sforzi che fa, ma siamo anche qui a una scopertura media attorno al 40% del personale amministrativo. Che cosa significa questo in concreto per la macchina della giustizia? Numerosi rallentamenti, una scarsità di risorse comporta l'impossibilità di evadere in tempo utile le varie istanze di giustizia. È mia intenzione richiedere l'aiuto, previo incontro, con i presidenti della Regione Friuli Venezia Giulia e con la Regione Veneto per verificare la possibilità che la giustizia di pace veda l'applicazione di alcuni dipendenti regionali. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Dopo il braccio di ferro fra amministrazione comunale e commercianti, a Udine l'intesa è stata trovata attorno ad una nuova ordinanza firmata dal sindaco De Toni. Esteso all'intero territorio udinese per tutto l'arco della giornata, in tutti i luoghi pubblici, parchi compresi, il divieto di consumo e detenzione di bevande alcoliche e superalcoliche. L'interdizione non riguarderà gli esercizi pubblici e relativi dehors regolarmente autorizzati o in occasioni di manifestazioni e eventi organizzati. E quanto prevede la nuova ordinanza firmata dal sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, che deroga e integra la precedente emanata dopo l'esito della rissa in cui l'imprenditore giapponese Shinpei Tominaga aveva riportato lesioni che ne hanno causato la morte. Per quel che riguarda il divieto di somministrazione, l'ordinanza del sindaco prevede la deroga già annunciata dopo l'incontro in prefettura. I pubblici esercizi potranno derogare al divieto notturno a partire dall'1 di notte, a condizione che i gestori garantiscano la presenza di appositi steward dall'1 fino alla chiusura del locale, anche tramite l'adesione al codice di autoregolamentazione non appena verrà adottata dalle categorie di settore. Restano fermi gli altri divieti previsti nella passata ordinanza. Pesanti le sanzioni previste, che vanno da 200 a 1.200 euro, oltre all'immediata cessazione dell'attività e al sequestro delle bevande. In caso di reiterazione può essere disposta dal questore la sospensione dell'attività. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli, Venezia Giulia. Pordenone Legge è giunto alla 25esima edizione e per l'occasione questa mattina ha presentato il suo vasto programma a Roma nella sede di rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia. Questa festa del libro, come scrivono gli organizzatori, è anche festa della libertà, perché senza cultura la libertà perde spessore e si indebolisce. Ed è a queste parole del Presidente della Repubblica Mattarella, riferite alla scorsa edizione di Pordenone Legge, che si ispira alla nuova denominazione del Festival Letterario, Festa del Libro e della Libertà. Il Presidente di Fondazione Pordenone Legge, Michelangelo Agrusti. Abbiamo ritenuto che dove non c'è la libertà e non c'è la democrazia, si fa fatica a scrivere libri, o impossibile, è ancora più difficile leggerli. Scrittori, giornalisti, perché anche i giornalisti sono degli scrittori, vengono uccisi, vengono perseguitati, vengono messi in galera a Teheran come nella Russia di Putin, quindi come nella Cina di Xi Jinping. Nozze d'argento per Pordenone Legge quest'anno, oggi la presentazione dell'importante edizione è avvenuta a Roma, a Palazzo Ferraioli, sede di rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia, con un paio di mesi di anticipo sulla data d'inizio, che sarà il 18 settembre. Il direttore artistico di Pordenone Legge, Gianmario Villalta. Il nostro festival è diventato una città festival anche importante e credo che per il 25esimo, insomma, ci si possa concedere anche di andare a trovare, diciamo, gli amici romani e di presentarci, insomma, in questa bellissima sede della nostra regione. I luoghi del festival saranno 43 in 13 città diverse, ma Piazza 20 Settembre a Pordenone resterà al centro delle iniziative, oltre 600 gli autori e più di 300 gli eventi nei 5 giorni. Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il teatro musicale torna al Castello di San Giusto a Trieste. Ieri sera un'applaudita rappresentazione della Turandot di Giacomo Puccini. Praticabili e graticci spostati a vista di legno e di metallo e sullo sfondo proiezioni dai colori freddi o in bianco e nero, quasi sempre a suggerire la forma di una testa umana e di conseguenza l'atmosfera noir dell'intero dramma. Spazio teatrale sfruttato nella sua interezza con i figuranti anche in platea e sulle mura del castello. È la Turandot di Giacomo Puccini, rappresentata a San Giusto nel cartellone Trieste Estate per la regia di Davide Garattini Raimondi. In questo spazio costumi che evocano un oriente misterioso e cupo, con la principessa Turandot, interpretata da Rebecca Locar, determinata a respingere e a mettere a morte chiunque si innamori della sua bellezza senza pari, vendicando così la violenza subita secoli prima da una sua antenata. Tinte cupe, ben disegnate senza eccessi e senza enfasi, da Enrico Calesso alla guida dei complessi del Teatro Verdi. Nel cast brilla la tenerezza della Liu di Caterina Marchesini, la schiava perdutamente innamorata del principe che tenta di conquistare Turandot. La sua morte chiude lo spettacolo triestino, che di conseguenza si ferma là dove Puccini lasciò l'opera incompiuta. Prima però c'è spazio per il timbro eroico del Calaf di Clay Healy, che lascia tutti senza fiato con l'aria forse più famosa dell'intero repertorio operistico. Trieste, Andrea Bardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. Si apre oggi a Gorizia la 43esima edizione del Premio Internazionale alla Migliore Sceneggiatura Sergio Amidei, che proseguirà fino al 17 luglio e sarà nuovamente palcoscenico dei migliori autori cinematografici del nostro tempo. Da anni il Premio Amidei si impegna infatti nella promozione e divulgazione trasversale della cultura cinematografica. 9 sono le sceneggiature che si contendono il premio. L'inaugurazione alle 21:20 in Piazza della Vittoria con la consegna del premio del pubblico alla sceneggiatrice spagnola Isabel Peña. Seguirà alle 21:30 la proiezione di C'è ancora domani di Paola Cortellesi fra i candidati al premio e alle 22 nella sala 2 del Kinemax Asbestas di Isabel Peña. Sarà Fantastic Negrito, cantautore, chitarrista e attivista statunitense, tre volte vincitore dei Grammy Awards, la stella della quarta giornata di programmazione della 34esima edizione di Udine Jazz. Fantastic Negrito, che pochi giorni fa ha pubblicato un singolo, Undefeated Eyes, realizzato in collaborazione con Sting, salirà sul palco del Castello di Udine. Porte aperte al pubblico alle 20, in attesa del live, che inizierà alle 21:30 con il set d'apertura del trio Dang del chitarrista udinese Gianni Roiatti. Alle 19, in corte Morpurgo, andrà invece in scena all'evento Around Gatto, un tributo a Gatto Barbieri. Per Teatro Estate 2024, capitolo tutto dedicato alla musica con l'arrivo dell'ensemble La Magnifica Comunità. Per il suo debutto udinese, l'ensemble proporrà un programma pensato appositamente sui leggii dei professori d'orchestra, splendide pagine di Mozart e Schubert, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, alle 21. Qualche notizia di sport: il calcio si disputerà allo stadio Enzo Bearzot di Gorizia e non a Fontana Fredda come originariamente previsto. La partita Udinese-Biglie in programma sabato alle 19. La decisione è stata presa su disposizione delle pubbliche autorità. La società bianconera ha anche comunicato di aver ceduto in prestito alla triestina Marco Ballarini con diritto di opzione fino al 30 giugno del 2025. Il centrocampista, cresciuto nel vivaio dell'Udinese, fa così ritorno nel club nel quale ha disputato la seconda parte della passata stagione. Continua a riservare sorprese il torneo di tennis Challenger Città di Trieste sui campi di Padriciano. Stamattina è caduta un'altra testa di serie, il francese Blanchet, battuto in due partite dall'uruguaiano Gomez. Ieri azzurri protagonisti, Alessandro Pecci ha battuto in 3-7 l'altro francese Per, mentre Jacopo Berrettini ha superato il tennista di Taipei Tseng, ritiratosi all'inizio del terzo set. Enrico Dalla Valle e Francesco Maestrelli hanno vinto i due derby italiani, eliminando rispettivamente la seconda testa di serie, Francesco Passaro, e la quarta forza del torneo, Andrea Pellegrino, che dopo essere arrivato a due punti dal match è stato costretto al ritiro da un colpo di calore. Ha ceduto il passo invece Federico Arnaboldi, finalista la settimana scorsa al Challenger di Modena. Il cileno Tomas Barrios Vera lo ha battuto in 2-7. Sono le 12:56 minuti, l'assistenza tecnica è stata curata da Mauro Cumin e da Viola Romanese, ha collaborato in redazione Edoardo Veglia. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione da Lara Zani e da Antonio Cagliazza, buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.